Ore 21, questa è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, inizia prove tecniche di trasmissione come ogni mercoledì che si rispetti. Spazio che andrà avanti sino alle 22.30 e poi intorno a quell'ora ci sarà anche 25 o'clock. Il sito è naturalmente www.ondarossa.info. Domani sul sito e sulla pagina Facebook Prove Tecniche di Trasmissione / Disorder andrà il podcast di questa trasmissione odierna. Saluto Enkill, Franco Barletta di Enkill, progetto piemontese elettronico industriale, tabula rasa delle parti di Cortina d'Ampezzo. Maya e Nicola Locci dalla Sardegna. Dario Arrighi, Sera K.O. Fontana di Progetto Non M dalla Toscana, come Cristiano Bocci di Chemical Resistance. Andy Rivieni di Attualità Nera, eccetera, eccetera, eccetera. Dalle Marche, un altro ottimo musicista, Emanuele Fais, in tutte le sue ragioni sociali, Pioggia d'Ambra, Boschio e anche il suo stesso nome. Lucia Cagliazza, in arte Lupsi, altro progetto interessantissimo da Udine. Phantom Ship con Roberto Faloci. Dunque andiamo ad iniziare questa odierna puntata di prove tecniche di trasmissione. Prima diciamo che comunque questa sarà l'ultima puntata di questo ciclo 2019-2020. Si ricomincerà presumibilmente o il 31 agosto con Disorder oppure il successivo mercoledì con prove tecniche di trasmissione, vedremo. Ci saranno delle repliche comunque che saranno messe nell'automatico, non so se è nell'orario diciamo di questi spazi, ma comunque tentar non nuoce se vorrete. Cominciamo con Sasha Roelli, che oltre ad essere uno dei fondatori di Lucesia è anche il detentore di un suo progetto di area esoterico industriale, ossia Ice Down. E attraverso appunto la Lucesia ha ristampato un vecchio lavoro del 2012 dal nome Rituals of Obsession. Album misterico, plumbeo, che in parte ricorda i primissimi Current 93. Intanto saluto anche Massimo Olla, anche lui sarà in playlist questa sera. Allora, ci andiamo ad ascoltare The Curse of Recurrent Mind Proceedings, la parte 1, una lunga traccia che comunque a sua volta la sentiremo in due parti, una parte stasera e una parte alla ripresa delle trasmissioni in settembre. Yeah. Trasudo e Mistero, questa traccia appartenente a Upside Down. Upside Down con Rituals of Obsession, un vecchio lavoro del 2012, riveduto e corretto e messo su il profilo Bandcamp di della Luce Sia e anche su supporto digitale. Otto anni fa uscì con la Swiss, la etichetta svizzera Show Me Your Wounds, non so se è più esistente. E Luce Sia, una delle protagoniste dal punto di vista dell'etichetta di questo 2020, l'ha ristampata. Questo è altro materiale per Upside Down. Il riff ossessivo e insistente che si arricchisce di volta in volta di elementi nuovi, di suoni nuovi che vanno ad arricchire questa traccia che va avanti e che andrà avanti per molti minuti, minuti che noi ci ascolteremo al nostro ritorno in settembre. Intanto altri personaggi dello zoccolo duro di prove tecniche e di trasmissioni si sono aggiunti: Antonio Zoviet di Omicidio da Firenze, Gianluca Becuzzi, Maria, Like Awake. Sisto Palombella, maestro di synth accordion. Jean-Claude Berthaud dalla Val d'Aosta. E lasciamo questo viaggio introspettivo di Upside Down e andiamo in Sardegna. Sardegna che ha, da parte sua, ha dato ai natali a moltissimi artisti di area elettronica, industriale, sperimentale in genere. Uno di questi è Massimo Olla. E anche Massimo Olla è entrato in contatto con la Luce Sia, affidando il suo Life in a Sonic Free Form Research Experience, un lavoro che si dipana tra clanglori industriali e passaggi più intimisti e microtoni. Un lavoro diviso in 8 movimenti. Noi ci ascoltiamo i primi 2 movimenti per quanto riguarda Massimo Olla. Se andiamo a vedere così lontani geograficamente parlando, Isaidon e Massimo Olla, ma accomunati dalle tinte sacrali e in questo caso anche dagli stridori, ultimamente congegnati anche attraverso il dronin di Massimo Olla, che si diletta anche a autocostruirsi materiale sonoro, strumenti particolari. L'ottimo mastering di Gianluca Becuzzi, per un lavoro anche questo per Lucesia. Ricordo Massimo Olla anche come Noise Delic e Hidden Reverse insieme a Simon Balestrazzi, se non ricordo male. Anche lavori appunto con lo stesso Becuzzi, Redrum e Tin. Tin, molto, lavori molto interessanti usciti negli anni scorsi. Saluto anche Wurnus Island dal Piemonte, anche loro, realtà storica dell'industrial. Fulvio Biondo di Solar Lodge. Saluto anche 25 O'Clock, entrato orora negli studi, che andrà in onda tra circa un'oretta. È il turno di perdersi nella Divina Commedia, nell'inferno di Dante, attraverso The Monology in Dante's Inferno, ennesima compilation ideata da Raffaele Pezzella attraverso Light Tower Records. Anche qui trasuda mistero, ma la Divina Commedia stessa, per chi è riuscito ad entrare in sintonia con quest'opera, e io sono uno tra quelli, indubbiamente mistero e viaggio popolavano la mente di Dante Alighieri, che poi scrisse quest'opera stupenda. Ad interpretare un momento dell'inferno della Divina Commedia c'è anche Samuel Goff con questa Medusa il Gorgon. di fuoco. Fantastica interpretazione di Samuel Goff, coadiuvata con la splendida voce di Twila Jane Rumbleton. E quel buon tempone di Pezzella ci ha anche detto che lui ha le recitazioni della Divina Commedia in vinile, proprio di questa artista americana, e quindi era gioco forza per quanto riguarda Pezzella in metterla in una delle tracce di questo lavoro, ricordo The Monology in Dante's Inferno, dove ci sono anche gli amici Becuzzi e Cristiano Bocci tra i protagonisti di questa ottima compilation che esce per la 8 Tower Records, ormai in realtà parallela alla Nesplay Sounds label, etichette ovviamente di Napoli. Saluto Giovanni Lisi di Cordis Cinti Serpente, Isetual a Milano. Momento Laibach, come stiamo facendo da molto tempo, 40 anni di attività, che è coinciso anche con la ristampa rivisitata, corretta e soprattutto allungata del primo lavoro del 1985, con nuove versioni rifatte secondo la nuova sensibilità Laibach, più elettroniche. Però ho ritenuto anche fare un ripassino dei pezzi storici dei Laibach di quell'epoca, il secondo CD, il primo CD proprio contiene questi, arricchiti da tracce inedite oppure messe con altra versione in album lì vicini, tipo Opus Dei, eccetera, eccetera. Questa sera ci ascoltiamo Slovenska Zena e l'ennesima versione, anche questa diversa, di Tiki Itzivas. Thank you. questo momento fantastico, questo momento marzial percussivo apparteneva ai Laibach, da questa Laibach Revisited, uscito in 3 CD scaricabili in free download da archive.org. I Laibach, ricordiamo, il nome non è nient'altro che il vecchio nome di Ljubljana, la capitale della Slovenia, il vecchio nome asburgico di Ljubljana, come ci si domandava qui tra quelli che mi stanno ascoltando, tra cui Sisto Palombella, che risalutiamo. Grande Laibach, un'opportuna ristampa in versione ultra allargata di quel seminale lavoro del 1985. Dario Enrichi e Sara Fontana, Pandemia, un album che già dal titolo svela un po' gli intendimenti e l'origine di questo loro ultimo lavoro, scritto durante il lungo lockdown di qualche tempo fa. Sorta di improvvisazione noise, queste 6 tracce ben congegnate e assemblate. L'ultima che lo riguarda si chiama Nothing Will Be the Same. We'll be right back. Si percepisce forse un retrogusto Velvet Underground in questa